Di mano, la famiglia Merloni vende agli americani di Whirlpool la maggioranza dell'azienda. Costo dell'operazione 750 milioni di euro. Solitalia riparte la trattativa con i lavoratori, si spera di chiudere oggi. Il decreto Ilva, approvato ieri dal Consiglio dei Ministri, non convince sindacati e l'ex subcommissario ambientale Ronchi, che dice: a queste condizioni non ci sto. Importazioni da Cambogia a dazio zero e la risicoltura italiana va in crisi. Oggi è la protesta di Coldiretti, parleremo di questo, oltre che di quote latte con il ministro dell'agricoltura Martina. Nuove linee guida dell'OMS sull'AIDS, gli omosessuali vengono invitati ad assumere farmaci antiretrovirali. Scarsa prevenzione, i contagi aumentano. Nella popolazione gay il rischio di contrarre la malattia è 19 volte più alto che tra gli etero. Una buona giornata da Simone Spezia e benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, ultima puntata prima della pausa estiva. Effetto Giorno a radio24.it per scriverci, la nostra pagina Facebook, il mio account Twitter e se volete scriverci durante la trasmissione c'è il 349-238-6666. Iniziamo dal Medio Oriente, come spesso stiamo facendo in questi giorni, con tutti gli aggiornamenti. In studio con me Francesco De Remigis. Buongiorno Francesco. Buongiorno, partiamo da quello che è l'aeroporto internazionale Ben Gurion. È stato bersaglio di 4 lanci di razzi questa mattina, intercettati dal sistema di difesa israeliano, ma questo non è bastato per metterlo in sicurezza totale, tant'è che sono già 2 le compagnie che hanno deciso di annullare i voli proprio pochi minuti fa, un volo dell'Air France e l'altro invece della compagnia polacca LOT. Ma non sono soltanto queste le notizie da Israele, perché i razzi continuano ad arrivare sul territorio israeliano a distanza sempre maggiore, a 160 km da Gaza. Addirittura un missile nella notte era caduto ad Haifa. Israele comunque continua a portare avanti il suo sistema di difesa e per quanto riguarda invece il passaggio dei feriti che derivano da quella che è la risposta israeliana nella striscia di Gaza, ieri era stato aperto il valico di Rafah, confine con l'Egitto, e sono state portate le prime persone ieri, oggi soltanto 11, è stato di nuovo chiuso. Proprio su questo punto abbiamo sentito poco fa il capodelegazione di Medici Senza Frontiere, Tommaso Fabbri. Prima c'era una decina di missili al giorno che si tiravano, e adesso siamo a una media di 10 bombardamenti all'ora. Da una settimana a questa parte le condizioni sono cambiate, ci sono dei forti bisogni a livello di salute in questo momento, gli ospedali assorbono le emergenze però sempre più a fatica, soprattutto a livello di feriti gravi che hanno bisogno di cure di rianimazione, quindi ci inizia a essere più bisogno di evacuare per delle vie, per delle aperture che può essere quella dell'Egitto, come menzionava Sur, per questi tipi di malati. E poi c'è il problema dei farmaci e di tutto quello che è relativo a materiale medico. Sono circa 600 i feriti ancora in attesa di cure mediche nella striscia di Gaza. Intanto continuano gli attacchi mirati di Israele. 2 i miliziani di Hamas centrati da un razzo israeliano uccisi mentre attraversavano in macchina una via del rione Al-Bureish di Gaza, in pieno centro cittadino. Stando all'ultimo bilancio delle fonti palestinesi, sale dunque a un centinaio il totale dei morti nella striscia dall'inizio dell'operazione barriera protettiva. I raid sono stati finora 210 di Israele nelle ultime 24 ore, 81 i siti militari di Hamas colpiti finora. Per il momento è tutto, a te. E grazie a Francesco De Remigis per questi aggiornamenti. Noi passiamo all'Italia, ma per parlare di economia e parlare di finanza, perché c'è stata l'acquisizione oggi di Indesit da parte di Whirlpool, o quantomeno l'accordo. È accordo fatto tra Whirlpool, Fineldo e la famiglia Merloni per la cessione di Indesit Company alla società americana. Whirlpool acquisterà il 60,4%, il 66,8% dei diritti di voto della compagnia marchigiana per 758 milioni di euro, pari a 11 euro per azione. Lancerà poi un'OPA sulle rimanenti azioni Indesit. L'acquisizione del controllo di Indesit, spiega una nota, è soggetta all'autorizzazione del Tribunale di Ancona e delle autorità antitrust ed è previsto che venga conclusa entro la fine del 2014. L'accordo annunciato oggi ha l'obiettivo di dotare Indesit di tutti gli strumenti per costruire un futuro solido e sostenibile, commenta Gian Oddone Merli, amministratore delegato di Fineldo. Nel corso di un dialogo durato molti mesi, Whirlpool ha dimostrato di essere il partner giusto. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E passiamo ad un'altra azienda italiana, Alitalia. Oggi proseguono le trattative, probabilmente proseguiranno a lungo tra governo, sindacati, azienda, soprattutto per trovare una soluzione alla questione degli ammortizzatori sociali e degli esuberi soprattutto. Massimiliano Zampini sta seguendo tutta la vicenda per noi. Massimiliano, dove ti trovi? Che succede? Buongiorno Simone, sono davanti al Ministero delle Infrastrutture dove è ripreso il confronto un'ora e mezzo fa tra governo, aziende e sindacati. Non si sta parlando di esuberi in questo momento, si sta parlando dei risparmi sempre sul costo del lavoro che arrivano dal precedente piano industriale messo a punto dall'amministratore delegato di Alitalia, Gabriele Del Torchio. E il tavolo va a rilento, ma il paradosso è che è una corsa contro il tempo, perché l'obiettivo dichiarato del governo, ma anche delle due aziende, è quello di chiudere entro la metà del mese. Mercoledì è previsto lo sbarco a Roma del numero uno di Etihad, James Hogan, che arriva per un altro motivo, ma insomma si capisce che viene per chiudere la trattativa definitivamente. Eppure sugli esuberi non si fanno grossi passi in avanti. Il tema dovrebbe essere affrontato nel pomeriggio dal tavolo, a cui si uniranno i ministri Lupi e Poletti, però la situazione sembra ancora piuttosto incartata. Etihad vuole che i 2.251 persone escano dalla compagnia, il governo e i sindacati stanno cercando per ridurre l'impatto sociale di questo intervento, ma la situazione rimane tutt'altro che semplice. Si parla di un migliaio di persone che potrebbero essere ricollocate in altre aziende del settore, ma insomma ancora soluzioni definitive non ce ne sono. Grazie intanto Massimiliano per questi aggiornamenti e per la giornata che seguirai, che immaginiamo sarà piuttosto lunga. Ancora l'economia con i dati arrivati oggi per quanto riguarda l'asta dei BTP. BTP a 3 anni, il tasso a un nuovo minimo record dello 0,84%, sono stati collocati sul mercato 7 miliardi e mezzo di BTP in una giornata nella quale le borse tentano il rimbalzo, un più 1,13% in questo momento sul FTSE MIB e un più 1,06% sul FTSE OCER. Naturalmente, come sempre sui mercati, ci torneremo dopo alle 13.30. Veniamo alle riforme, allo stato della trattativa con Elisabetta Fiorito. Buongiorno. Sì, buongiorno. In aula il nuovo Senato arriverà lunedì. Simone, il Premier Matteo Renzi chiede tempi stretti per il primo sì, ovvero prima della pausa estiva. Ricordiamo che è un disegno di legge costituzionale, quindi occorrono 4 sì, 2 dalla Camera, 2 dal Senato. Intanto il Ministro delle Riforme Maria Elena Boschi dice di non temere imboscate, ma il Governo apre a possibili ritocchi in aula. Boschi dà anche atto al leader di Forza Italia Silvio Berlusconi di una prova di serietà e concretezza che non possiamo non riconoscere, e ricorda i dissidenti del PD quindi che ritocchi saranno possibili. Adesso però si apre il problema con il Movimento 5 Stelle, perché i 5 Stelle pensano ad un asse trasversale per l'ostruzionismo in aula. Ieri infatti in Commissione Affari Costituzionali hanno votato il disegno di legge Forza Italia, PD, Nuovo Centrodestra e Lega, ma hanno votato no SEL, Movimento 5 Stelle, mentre si è assentato al momento del voto il senatore dissidente di Forza Italia Augusto Minzolini. Dai 5 Stelle una critica: sono stati respinti 220 emendamenti, la riforma va avanti a forza di prepotenza e i grillini contestano l'immunità per i nuovi senatori, che però il governo ha già detto che si può modificare in aula. Ricordiamo, il testo approvato ieri prevede l'elezione indiretta di 100 senatori basandosi sui voti e sui seggi nei consigli regionali. A te Simone. E grazie alla nostra Elisabetta Fiorito, un aggiornamento che arriva da arresti commessi effettuati questa mattina. La polizia di Milano e di Torino ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare per 3 persone ritenute appartenenti all'area anarchica. Sarebbero coinvolte negli scontri contro le forze dell'ordine durante l'assalto al cantiere TAV di Chiomonte fra il 13 e il 14 maggio 2013. Sono indagati, tra l'altro, anche per il reato di terrorismo, oltre che per il reato di possesso di armi da guerra. Parliamo di AIDS adesso. Gli omosessuali hanno un rischio di contrarre l'HIV 19 volte più alto del resto della popolazione. Così l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che per la prima volta consiglia ai gay di assumere farmaci antiretrovirali come forma di prevenzione. Stefano Vella, direttore del Dipartimento Farmaco dell'Istituto Superiore di Sanità. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno, buongiorno a tutti. È una profilassi utile? Sicuramente è stato dimostrato che è efficace, no? Perché poi l'esempio è quello anche della malaria. Quando noi andiamo in Africa, a volte prendiamo dei farmaci prima di andare per evitare di contagiarci, e quindi non è una novità scientifica. La profilassi preesposizione esiste in varie malattie. Si è visto che funziona anche per prevenire l'infezione, e allora l'OMS, guardando a questi dati così preoccupanti dell'incidenza, cioè il numero dei nuovi casi in alcune popolazioni a rischio, che hanno comportamenti a rischio, quindi non si tratta di popolazione a rischio ma solo di chi ha comportamenti a rischio, quindi grande promiscuità, molti rapporti, beh certo in quel caso forse in aggiunta ai sistemi che già conosciamo di prevenzione, questa potrebbe essere un qualcosa da offrire, ecco. Senta, Vella, so che probabilmente non è specificatamente il suo campo, però insomma magari qualche dettaglio ce lo può dare lavorando all'Istituto Superiore di Sanità. Constatate anche in Italia questo stesso livello di esplosione di casi, così come lo chiama l'Organizzazione Mondiale della Sanità? Ecco, diciamo che appunto c'è un centro che si occupa poi di questi problemi epidemiologici qui in istituto, ma non è la stessa, l'Italia non è nella stessa situazione. Ci sono paesi in cui c'è una grossa concentrazione, diciamo, di persone che hanno comportamenti ad alto rischio, stiamo parlando di San Francisco, stiamo parlando dei quartieri di Parigi, eccetera, ma comunque diciamo che sicuramente chi ha molti rapporti omosessuali è più a rischio di contrarre l'infezione da HIV. La ringrazio, grazie a Stefano Vella, grazie, direttore del Dipartimento del Farmaco dell'Istituto Superiore di Sanità. Rifiuti e sviluppo economico ecologico. Il convegno si sta svolgendo oggi a Roma, però nel giorno nel quale in città è stata sequestrata un'area abusiva di stoccaggio di rifiuti destinati alla Nigeria, e a poche ore da un infuocato consiglio comunale sulla raccolta rifiuti nella capitale, che su questo fronte, almeno in alcune zone, sta vivendo in questi giorni un'emergenza. Antonio Cavaliere, ex presidente del defunto Osservatorio Nazionale Rifiuti, attuale presidente di Risistema, organizzatore dell'incontro, intervistato da Laura Bettini. I due problemi grossi che noi abbiamo nella gestione dei rifiuti sono: uno, la segmentazione della gestione di questi rifiuti, e come il sistema non riesce a fare sistema, cioè nel senso che ci stanno c'è la necessità da una parte di creare gestori intersettoriali, interdisciplinari, e dall'altra parte però di non segmentare in una maniera, diciamo, che organizzativamente non efficiente. Questo è un grosso problema italiano, direi. Poi dopo lei è stato presidente dell'Osservatorio Rifiuti e questo sicuramente l'ha ben chiaro, ecco. Esattamente, cioè questo è il problema, è proprio questo, che l'Osservatorio Nazionale dei Rifiuti all'epoca operativo su molti fronti e nasceva proprio si è evoluto proprio nell'esperienza multiministeriale da una parte e multisettoriale, multidisciplinare come si diceva prima, quando invece non esiste un ente che permette di portare avanti una cosa multidisciplinare, generalmente si cade in una delle due logiche: o una cosa che fa assolutamente bene o male all'ambiente, o è una cosa in cui ci sono o non ci sono soldi per fare una certa cosa. Invece le due cose possono essere bene coniugate. Prima del traffico parliamo del cognome dei figli, sono in arrivo delle novità. Libertà totale di scelta sull'attribuzione del cognome da dare ai propri figli. Lo ha deciso la Commissione Giustizia della Camera, che lunedì prossimo discuterà in aula un testo frutto dell'unificazione di vari disegni di legge e del decreto del precedente governo approvato nel gennaio scorso. Un decreto che già aboliva l'obbligo ad usare solo il cognome paterno sulla scia di una sentenza della Corte di Strasburgo. Un bambino d'ora in poi potrà avere il cognome del padre o della madre o addirittura di entrambi secondo un criterio di scelta totalmente libero. E in caso di disaccordo li avrà entrambi, ma in ordine alfabetico. Il decreto prevede anche che una volta maggiorenne il figlio possa decidere di aggiungere il cognome materno a quello attuale. Per farlo basterà una sua semplice dichiarazione all'ufficiale di stato civile. L'unica limitazione riguarda i figli nati fuori dal matrimonio, che non potranno assumere il cognome del genitore che non li avrà riconosciuti. Infine, per i figli di questi figli con doppio cognome, onde evitare una moltiplicazione esponenziale, la legge prevede che si possa trasmettere solo uno dei due cognomi a scelta dell'interessato. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Prima di dare la linea alla viabilità, una risposta all'ascoltatore che vorrei tranquillizzare, che mi scrive al 349-238-6666, che parla di un'ostentata pausa estiva di 2 mesi, a parte che effetto giorno si ferma per 1 mese e mezzo, e poi non ho detto che vado io in ferie per 1 mese e mezzo, si ferma solamente la trasmissione fino a settembre. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Sono oltre 100 le vittime nella striscia di Gaza, suonano le sirene antimissile a Tel Aviv, Hamas avverte le linee aeree straniere, stoppa i voli sulla capitale israeliana. Indesit passa di mano, la famiglia Merloni vende agli americani di Whirlpool la maggioranza dell'azienda, costo dell'operazione 750 milioni di euro. Caso di Cogne, il procuratore generale di Bologna ha presentato ricorso contro la decisione del Tribunale di Sorveglianza, che ha accolto l'istanza di detenzione domiciliare per Anna Maria Franzoni. La procura chiede che la donna, condannata a 16 anni per l'omicidio del figlio, torni in carcere. Se ne discuterà in Cassazione. Importazioni dalla Cambogia a dazio zero, risicoltura italiana in crisi, oggi la protesta di Coldiretti, parleremo anche di questo tra poco con il ministro dell'agricoltura Martina. Parliamo adesso però del decreto Ilva, che è stato approvato ieri dal Consiglio dei Ministri, un decreto che a quanto pare non convince i sindacati e non convince a quanto pare l'ex subcommissario ambientale Edo Ronchi, che saluto, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Allora, da quel che abbiamo capito, non la soddisfa il decreto che è uscito ieri dal governo sull'Ilva. No, serviva veramente un cambio di passo, a mio parere non c'è. Qui bisogna applicare il principio europeo chi inquina paga e poi in ogni caso assicurare che l'interesse pubblico all'occupazione e all'ambiente sia tutelato. E quindi serviva a poter disporre delle risorse della proprietà sequestrate a Milano e eventualmente integrate o sostituite, se non disponibili, con un prestito trentennale garantito dallo Stato. Io penso che una volta dichiarato un stabilimento di interesse strategico nazionale, per garantire sia un pezzo importante dell'economia nazionale, sia un pezzo importante dell'occupazione e risanamento ambientale, l'impegno pubblico non può limitarsi ad assicurare un prestito ponte tampone, non è sufficiente. E poi noi con la pubblicazione del DPCM piano ambientale siamo entrati in una fase con scadenze fissate e impegni ben definiti. Prima un subcommissario consulente tecnico poteva anche essere utile. Adesso, per rispettare quelle scadenze, non in una fabbrichetta della Brianza o delle parti mie, ma nella fabbrica più grande d'Europa, non per fare un intervento ambientale, ma per atturare 2 AIA più un'integrazione, sono centinaia di misure. Serve una catena di comando ben definita, con capacità operativa e con responsabilità definite. E anche questa parte, sintetizzata nella parola un commissario ambientale per attuare il DPCM piano ambientale, purtroppo non c'è. Sì, lo spieghiamo, anche agli ascoltatori. Si era ipotizzato inizialmente che ci fosse appunto un commissario ambientale, una sorta di figura appunto che coordinasse per attuare tutto il piano ambientale, per attuare il piano ambientale, e si era parlato del suo nome, che al momento lei è subcommissario. No, al momento io sono scaduto il 4, io non sono più niente, cioè mi è stata proposta la riconferma cortesemente dal ministro Galletti, ho detto che nelle condizioni nuove non ero disponibile, che serviva e serve a mio parere un cambio di passo, altrimenti non vedrei le condizioni operative. Quindi se non io non sono commissario. Quindi se non ci fosse un cambiamento nel decreto, magari nei passaggi parlamentari, lei non è disponibile a proseguire il suo impegno con l'Ilva? L'ho appena detto al ministro che mi ha gentilmente chiamato stamattina, no, certamente non è cambiata la situazione rispetto al 4 giugno quando gli dissi che non vedevo le condizioni per continuare l'impegno, ho cercato di spiegarle anche ora. E Galletti che cosa le ha risposto? Che il decreto non cambia, resta così? No, ma Galletti non è che sto rivelando in maniera scorretta. L'aveva anche già annunciato e aveva anche proposto dei testi, e la sua proposta non è stata accolta. Io la ringrazio, a questo punto vedremo come evolverà la situazione nei prossimi giorni, magari cercheremo anche di sentire qualcuno del governo, qualcuno direttamente coinvolto nell'estensione di questo provvedimento. La ringrazio, buona giornata. Buona giornata. Saluto anche Cosimo Panarelli, che è segretario generale della FIM CISL a Taranto. Panarelli, salve. Buongiorno a voi. Allora, sentito quello che dice Ronchi, io vorrei sentire la vostra posizione come sindacati sulla vicenda Ilva e sul decreto varato dal governo, naturalmente per quel che ne sappiamo fino adesso, perché è ovvio che insomma per il momento non abbiamo propriamente un testo. E io mi sento di condividere le parole del dottor Ronchi. Nel senso che questo cambio di passo, che ovviamente ci aspettavamo tutti quanti, dobbiamo dire, almeno dalle prime notizie che ci stanno arrivando, che questo cambio di passo è molto rilento. E questo, come dire, ci fa ben preoccupare. Noi ci aspettavamo qualcosa, come dire, che andasse nella direzione giusta, nel senso che la cosa che noi rivendichiamo, come dire, la certezza dell'applicazione dell'autorizzazione di decreto ambientale a partire da subito. Abbiamo dei mesi di ritardo che abbiamo accumulato per una serie di vicissitudini, non si intravede con questo cambio di passo un discorso, come dire, che velocizzi e quindi, come dire, si applichi quanto prima l'autorizzazione di decreto ambientale. Panarelli, ma che cos'è che temete concretamente? Teniamo il fatto, come dire, che si abbandoni o comunque si rallenti il processo di messa a norma degli impianti e si stia pensando a qualcos'altro. Io credo che il qualcos'altro ci può pure stare, che è quello della vendita, molto probabilmente, dalle dichiarazioni che anche lo stesso commissario Nuti ci ha detto nell'incontro che abbiamo fatto la settimana scorsa. Però contestualmente al discorso della vendita ci deve stare la messa a norma degli impianti e non si può, come dire, bypassare questa condizione. C'è un problema di normativi, legali, di leggi che sono state fatte dai governi precedenti, bisogna solo applicarli, punto. Questo noi non l'abbiamo intravisto e questo, come dire, è la nostra forte preoccupazione rispetto al futuro. Questo è quello che del perché anche dell'iniziativa di sciopero che abbiamo fatto ieri, che abbiamo consumato ieri a Taranto. La preoccupazione che i lavoratori avversano è quella lì, che non vedono come il loro futuro oggi ancorati in termini di certezza. Sento una cosa, avete intenzione di fare altre iniziative? Assemblee, scioperi? Al momento no, perché dall'ultimo incontro fatto anche con il ministro Guidi pare che si sia impegnato che il 16 ci dovrebbe esserci un incontro a Roma, dove conosceremo nel dettaglio i contenuti del decreto e lì capiremo, come dire, chi metterà la disponibilità dei soldi necessari per poter fare le cose che lo stesso decreto, almeno da quello che ho letto sui giornali stamattina, come dire, dice che dobbiamo fare una serie di interventi di ambientalizzazione. Bisogna solo capire chi metterà i soldi. Oggi questo non c'è dato sapere. Noi ci auguriamo che il giorno 16, nell'incontro che faremo a Roma, come dire, il ministro, come dire, ci dia tutte le illuminazioni giuste per portare avanti questo processo di cambiamento e di innovazione all'interno della fabbrica. Grazie, grazie anche per la sua posizione. Grazie a Cosimo Panarelli, segretario generale della FIM CISL Taranto. Naturalmente ci torneremo anche oggi pomeriggio in Focus Economia, ai voi, anche oggi affidata a me. Saluto Giuseppe Esposito, senatore, vicepresidente del COPASIR, il comitato di controllo sui servizi di sicurezza. Senatore, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a lei e ai suoi radioascoltatori. L'abbiamo chiamata per parlare di quello che è successo nei giorni scorsi e che sta succedendo in queste ore in realtà tra la Germania e gli Stati Uniti, dei veri e propri casi di spionaggio da parte di 007 americani, di uomini dei servizi americani su Berlino, non solo, ma anche casi di uomini dei servizi segreti tedeschi infedeli, per così dire, che passavano informazioni alla CIA. Io vorrei sapere e capire se avete informazioni simili per quanto riguarda l'Italia, se sospettate che ci sia qualcosa di simile, se avete intenzione di informarvi se sia avvenuto qualcosa di simile. Guardi, quello che è accaduto è un fatto grave, che un alleato spii un altro alleato, anzi corrompa pezzi dei servizi di sicurezza, e come tale questo allarme è arrivato anche in Italia in questi giorni, è stato sotto traccia fino a quando poi non è diventato pubblico per la posizione della Germania. Sia il COPASIR in questi giorni che l'autorità delegata, il senatore Marco Minniti, che si occupa di coordinare i nostri servizi di sicurezza, stanno facendo e stiamo facendo insieme la massima vigilanza su quello che sta accadendo e sull'approfondimento e il tracciato dei giorni scorsi per quanto riguarda i nostri servizi. E quindi state, come dire, per così dire, scandagliando all'interno dei nostri servizi per capire se sia avvenuto qualcosa di simile? Sì, perché per il momento noi non abbiamo riscontrato nessun episodio né di spionaggio né di corruzione dei nostri agenti, ma comunque è alta l'attenzione in queste ore. Lei ritiene che ci possa essere qualche rischio di questo tipo oppure no? Guardi, io ritengo i nostri servizi siano, i nostri addetti ai servizi siano una delle migliori agenzie in Europa. Ritengo altresì però che purtroppo in Europa non si è riuscito a fare mai una politica comune della sicurezza. Questo un po' è dovuto, io lo sto dicendo in questi giorni a più voci, anche alla nostra baronessa Ashton, che per 5 anni ha tenuto una politica della sicurezza basata sulle posizioni della Gran Bretagna e non dell'Europa Unita. Guardi, l'Italia, così come la Germania, in questi 5 anni, anzi forse di più pure, negli ultimi 8 anni, ha chiesto agli Stati Uniti di entrare a far parte di quello che viene chiamato il club dei paesi non spiandi. Oggi ce ne sono solo 5 in questo club, che sono gli Stati Uniti, la Nuova Zelanda, l'Australia, e per l'Europa solamente la Gran Bretagna. Gli Stati Uniti non hanno mai accettato di far firmare alla Germania e all'Italia il patto bilaterale di non spiandi. Tra l'altro ci scrive qualche ascoltatore, dica al senatore che lo fanno tutti e lo fanno da sempre in realtà, cioè quello che stanno facendo gli Stati Uniti con la Germania. È vero, io non sto dicendo che non è così. Solitamente però fra alleati, almeno in casa, non si era fatto dalla guerra fredda in poi. Sta riprendendo questa abitudine. Questo perché l'Unione Europea e i servizi di sicurezza europei insieme non riescono a fare una grande forza. Io penso che tutti quanti i paesi dell'Unione Europea, o almeno dei 10-12 paesi più importanti dell'Unione Europea, fare una grande forza di sicurezza a difesa dell'Europa serve a tutti i paesi individualmente e serve ad avere più peso a livello internazionale. La ringrazio, grazie al senatore Giuseppe Esposito, vicepresidente del COPASIR. Naturalmente poi insomma, qualche ascoltatore noterà che è un po', per così dire, criptico per certi aspetti, ma necessariamente lo è il comitato di controllo sui servizi segreti, insomma, anche se probabilmente, anche se sapesse qualcosa, non è detto che ce lo possa dire in questo momento. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Ce n'è una appena battuta dalle agenzie di notizie, un attacco ai separatisti russi con missili Grad a Lugansk nell'est dell'Ucraina ha causato fino a 30 morti tra i soldati impegnati in un'offensiva nella regione. E oltre 100 vittime ci sono nella striscia di Gaza mentre suonano le sirene antimissile a Tel Aviv. Hamas dice di essere pronto a combattere per mesi e avverte le linee aeree straniere. Stop ai voli sulla stessa Tel Aviv. Indesit passa di mano, la famiglia Merloni vende agli americani di Whirlpool la maggioranza dell'azienda per 750 milioni di euro. Decreto Ilva, approvato ieri dal Consiglio dei Ministri, non convince i sindacati e l'ex subcommissario ambientale Ronchi, che a Radio 24 dice: a queste condizioni non ci sto. È il momento della borsa. Borse in diretta. Si respira oggi dopo la giornata molto pesante di ieri, più 1,37% sul FTSE MIB, più 1,23% sul FTSE All Share, e il resto d'Europa vede Parigi in rialzo di 0,5%, Francoforte dello 0,14%, Londra dello 0,15%. Isabella Tasso, Radio Corriere del Sole 24 Ore, ciao, buongiorno e bentornata. Buongiorno. Insomma, forse un po' presto per dire che è passata la paura, eh? Sì, però Piazza Affari rimbalza bene, questo dopo lo spavento di ieri legato, come ricordavi, alle difficoltà finanziarie della portoghese Banco Espirito Santo. Milano performa meglio degli altri mercati europei, questo grazie alla spinta propulsiva dei titoli bancari. Stamane il Premier del Portogallo e la Banca Centrale hanno fornito rassicurazioni per i correntisti e sull'assenza di ripercussioni sull'intero sistema bancario portoghese dalla crisi della Banco Espirito Santo. La banca lusitana è stata riammessa da poco alle contrattazioni, aperto in buon rialzo, adesso sta perdendo invece leggermente terreno. Piazza Affari, dicevamo, vanno bene i titoli bancari e i finanziari, con rialzi anche dell'ordine del 4% per le popolari, che avevano perso di più ieri, Popolare di Milano e Banco Popolare. Ebbene, oggi anche Unipolsai che guadagna il 3,5%, Finmeccanica il 2,97%, in fondo a listino World Duty Free che cede lo 0,91%, Mediaset lo 0,78%, Salvatore Ferragamo lo 0,4%, Tenaris lo 0,23%, euro che quota 1,3607 contro dollaro. Grazie anche per oggi Isabella, buona giornata. Buona giornata. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Maurizio Martina, ministro dell'Agricoltura, bentornato ai nostri microfoni. Buongiorno. Buongiorno. Allora, la chiamiamo per parlare di due argomenti essenzialmente. Il primo riguarda questa protesta inscenata oggi dalla Coldiretti e che ha a che fare con la risicoltura italiana. Perché? Che cosa succede? Succede che di fatto si può importare a dazio zero dalla Cambogia e, se non erro, dal Myanmar, e questo di fatto ammazza la risicoltura italiana, è così? Guardi, è un fenomeno di questi ultimi tempi, questi ultimi due anni in particolare, e purtroppo sta mettendo in grandissima difficoltà le imprese risicole europee, ma in particolare quelle italiane di alcuni altri paesi. E il tema c'è tutto, e voglio ricordare ai vostri microfoni che l'Italia, che noi siamo stati i primi e unici a un certo punto qualche mese fa a porre la questione in chiave europea, noi battaglieremo in Europa su questo, perché è evidente che si è creato un fenomeno molto complicato e problematico per i produttori italiani e europei. Sono state fornite delle cifre sulle importazioni che facciamo da questi paesi, un più 360%, ce le conferma? Ma sono tendenze che in effetti stiamo monitorando e che ci danno esattamente queste dinamiche. C'è una, come dire, una crescita vertiginosa della loro capacità di entrare sul mercato europeo e una grande difficoltà dei nostri produttori. Noi abbiamo chiesto di attivare la clausola di salvaguardia, la Commissione non lo ha ancora fatto, sulla base del fatto che a loro giudizio non è ancora chiaro che il fenomeno effettivamente impatti in maniera negativa e che si possa a questo punto far scattare la clausola di salvaguardia, ma su questo punto noi insisteremo ancora. Un po' lenta l'Europa anche sotto questo aspetto, mi sembra, o no? Beh, ci sono, argomentano, diciamo, con alcuni elementi di scenario tecnico che per noi non sono per niente convincenti. Parliamoci chiaro, Ministro, fa comodo a qualche paese, a qualche altro paese questa cosa qua? Può essere. Direi che può essere. Può essere. La seconda domanda che le volevo fare riguarda sempre i nostri rapporti con l'Europa, in realtà, e la questione delle quote latte. Dobbiamo recuperare 1.400.000.000, la cifra è lievemente inferiore, sono 5 milioni in meno, però 1.400.000.000 di euro di multe non riscosse. Come si fa? Guardi, come abbiamo detto in queste ore, si tratta purtroppo dell'annosa vicenda figlia del passato, 95, dall'inizio del 1995, vicenda gestita male negli anni da questo paese, perché non si doveva arrivare fin qui in questo modo. Adesso noi ci troviamo di fronte a una situazione più complicata e il nostro faro è il rispetto delle regole. E quindi anche nelle prossime settimane, come abbiamo fatto anche nei mesi scorsi, noi lavoreremo per rendere operative alcune scelte costose, dal punto di vista, diciamo, del rapporto con le imprese coinvolte, ma necessarie. E quindi esigerete che queste imprese paghino? Per forza, il meccanismo è un meccanismo che deve assolutamente procedere e da questo punto di vista l'Agenzia per l'erogazione in agricoltura, AGEA, sta già lavorando e per cui i meccanismi sono aperti. E entro quando inizierete operativamente? Guardi, è un lavoro che già si sta strutturando perché ovviamente la questione era nota, non è che possiamo sorprenderci tutte le volte, la ereditiamo veramente da anni fa. Io credo che soprattutto nelle prossime settimane questo lavoro si perfezionerà. Non riesce a darci dei tempi di chiusura dell'operazione, cioè entro quando contate di recuperare questi soldi dalle aziende? Sinceramente non voglio dare un lasso temporale che ancora non ho definito e non abbiamo definito, ma il punto vero è, come dicevo prima, ovviamente nel quadro del totale rispetto delle regole, attivare gli strumenti necessari. La ringrazio. Faccio anche presente, sì, se posso, prego, aggiungere, prego, che dal 2012 le imprese coinvolte a cui vengono contestati questi pagamenti e lo sforamento delle quote non hanno più accesso ai pagamenti PAC, cioè ai pagamenti della politica agricola comunitaria, quindi già alcune scelte non banali sono state fatte, soprattutto in quest'ultimo periodo. La ringrazio. Grazie Maurizio Martina, Ministro dell'Agricoltura, buona giornata e buon lavoro. Voglio dire, prima di andare al traffico, a Giovanni che ci scrive che ci muoviamo solamente quando protestano i contadini, e quando protestava il tessile per queste cose non ci muoviamo. Guardi, su questo ci siamo sempre mossi, se si va a riascoltare i podcast e gli archivi degli anni scorsi di Radio 24 troverà pacchi di trasmissioni proprio su questo tema. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Ed è il momento di Mario Platero. America 24 di Mario Platero. Benvenuti in America 24 da New York, Mario Platero, atmosfera calda alle Nazioni Unite, perché? Beh, perché da ieri si è aperto un dibattito piuttosto vivace, e le conclusioni ci saranno oggi, poi ve le darò la settimana prossima, su diete alimentari, rapporto tra diete alimentari e obesità. È uno dei problemi più gravi del nostro tempo. Ci sono alcuni esperti che suggeriscono l'introduzione di regole fisse per limitare quello che la gente mangia, quindi darci delle regole, imporci delle restrizioni, per esempio sugli zuccheri, ma anche su altri prodotti. Altri dicono no, insomma è molto meglio avere delle diete equilibrate, soprattutto fare esercizio, lo dice per esempio Michelle Obama, che si occupa molto di questo problema che in America è molto molto serio. Che è successo? Che nel frattempo è uscito uno studio, meglio lo studio uscirà in agosto, ma abbiamo avuto delle anticipazioni, della Stanford University, che ha studiato un periodo molto specifico tra il 1988 e il 2010 e ha tirato delle conclusioni, ma direi che sono chiarissime, sull'importanza di muoversi e di fare esercizio, e anche il corollario, cioè sull'importanza di non limitare certi